acqua cristallina, come si chiamava, che vendeva, non so se c'è ancora. Pazzesia! Ehi, le bustine, che se non facevi in tempo a chiuderla, ti va zia la doccia. Mamma la faceva, era buona, ci metteva l'acqua al rubinetto con quella lì, e che sembrava malato, ui. Adesso che ci metto tutte le porcherie in mezzo all'acqua e fa male, ma prima non succedeva questa cosa. Questa, sì, perché ci mettono tutte le robe per il cloro, ci mettono quelle robe lì, per l'alga, per quello, per l'altro, infatti lo dicono che non è acqua assolutamente da bere. Allora di fronte a casa si è fatto l'impianto, ma la faccio assaggiare l'acqua dal frigorifero, ma è buona, leggera, proprio non si sente sapore, niente. Un po' leggera, siamo su quell'impianto, gli hanno messo il rubinetto a fianco, filo filo, e scende l'acqua da lì. Sì, c'è anche su coso. Io la volevo mettere, sulla lavandina. Ma cosa, Antonello mi pare qui là. Ma impianti del genere, come l'ha pagato lui, caspita. Non ti bastano 3.000 euro per fare una cosa come si deve proprio. No, 1.500 mi pare che ha pagato. Un po' di cose comunque ti viene, un po' di dubbio, diciamo, un po' di prima di berla. Io gli ho detto, ma sopra qua il rubinetto, sarà con i metalli pesanti, tutti, come quella dell'acquario, non tutti i metalli pesanti, ma è sempre quella del rubinetto. Certo che i metalli pesanti non ci sono, però l'acqua è sempre quella, del bacino, mamma mia, a pensare che cosa vogliono animali in mezzo, mamma mia. Quello dovresti far bollire, filtrare, mica filtrare, metterli ghidu, l'altro. Non lo so fino a quanto sarebbero attendibili questi impianti, anche se costano, però dovresti fare analizzare, secondo me, poi. La dovresti far analizzare, allora quando l'hai analizzata sei sicuro che quella è potabilissima, la puoi bere. Ma così che ti fanno l'impianto, ti dicono vada tranquilla, allora lo fanno per vendere naturalmente. Ti dicono vai tranquillo, bevi e tu prendi così senza far analizzare poi. Ma infatti io, guarda, io prima, quando eravamo sposati da poco, andavo a Florina a prendere l'acqua. Lì sì che è buona, che scende dalla montagna ed è filtrata dalla roccia, e guarda, e scende l'acqua che ti ghiaccia la bottiglia. E ce ne sono fontane, ce n'è anche una ad andare lì al bagno. Però già, io, cioè, c'è sempre da fresca, buonissima quanto vuoi, ma buonissima, però è potabile, cioè è a berla così senza essere analizzata. Anche in queste, appunto, queste fontane qua dovrebbero analizzarla, no, il comune, prima di farla bere ai cittadini. C'era un pastore lì che rompeva le balle, se sciacquavi, io sciacquavo i bidoni, li sciacquavo prima a casa e poi prima di metterci l'acqua li sciacquavo anche lì. Non voleva, diceva che la sprechevamo l'acqua così, che quella la dava anche agli animali, dice tu pensa che i cavalli quando avevano il raffreddore bevevano quell'acqua e guarivano subito, se la dava anche i cavalli per guarire, capito? Quando avevano la febbre, tutte queste che erano raffreddati eccetera, la dava ai cavalli. E c'è un pastore lì che pascola sempre le pecore lì, ma sta sempre a guardare quello che rompe così le palle, si mette vicino alla fontana e quando tu sciacqui i bidoni ti dice cosa. Ma ti sei azzuia, la signori c'è la concia lo stesso, no? Cioè l'acqua scende proprio dalla roccia e va a cadere dentro il vascone dove le donne tantissimi anni fa lavavano la roba, no? Un vascone lungo, largo, io che mi ricordi un metro forse. E questa acqua scende dalla roccia, ma ne scende parecchio, ed era acqua buonissima, noi la bevevamo, prendevamo a bidoni, la prendevamo, però non sapevi neanche questa acqua da dove arrivava, e tu la vedi scendere dalla roccia, bella fresca, buonissima, però in effetti se non la analizzi per sapere se per quanto la puoi bere, perché comunque non sai cosa contiene, e bisogna stare anche attenti a queste cose, può essere buona l'acqua ma non sai cosa contiene poi. Allora prendevamo anche a Usidi, a Sant'Antonio di Usidi, non so se sei mai andato, che c'è un parco dove puoi arrostire anche, lì all'entrata, prima di arrivare al parco, perché poi c'è una strada un po' serrata che arriva poi al parco, c'è una fontana lo stesso, ed è molto buona anche quella lì. Praticamente mi stava dicendo questo paesano che loro usufruivano dell'acqua che avevano nel sottosuolo prima, poi si è messa a mano e mezzo e ha cominciato a farli pagare, perché sennò loro avevano tutti acqua del sottosuolo della rete idrica. E quante fontane ci sono anche a Roma, Milano, nelle piazze, l'acqua sempre aperta accendendo, ed è acqua della condotta, e molti turisti la bevono quell'acqua lì, come fanno non lo so. L'acqua di Roma è potabile anche quella che è in casa, lo so perché io amici a Roma la bevono dal rubinetto loro l'acqua, è potabile l'acqua che bevono loro, perché scende proprio dalle montagne. È acqua che ti fa le bottiglie, te le fa opache, te le ghiaccia. No, quella è buona, io l'ho bevuta, poi sempre da vedere, se analizzandola, poi ti dà delle magari calcare, tutte queste cose qua. La zona di Irula, quella zona Chiaramonti, Irula, è ferruginosa l'acqua. Sì, ma ho capito già, ma è sempre acqua di condotta, nel senso che quest'acqua poi passa nei tubi, in questi tubi ne sai molto cosa si deposita. No, io non ne berrei comunque. Non è che la stai prendendo dalla roccia, tu la stai bevendo comunque dalla tubazione idrica che c'è, che sa da quanti anni, ma va tutta arrugginosa, è sempre la cosa si arrugginisce poi dentro, no? Ma io non ne berrei. Oh già, ascolta, quella fonte dove andavi tu a Florinas, per caso era, c'è una strada, una stradina, c'è una strada, no? A destra c'era la fontana, a sinistra ti risulta se c'era una specie di piccola casettina abbandonata o un mulino abbandonato? No, la fontana, allora dovevi entrare nel paese, poi c'era uno spartitraffico, svoltavi a sinistra e la fontana si rimaneva sulla sinistra, proprio dove c'è la cava. Lo dicendo l'acqua, capito? C'è una cava lì vicino, eccetera. E l'acqua non scende molto forte, però è buonissima l'acqua, scende ghiacciata, bella fresca. A volte la bevevo anche lì, e poi molte volte, quando non c'era molta gente, la moglie rimaneva riempita di bidoni, io salivo su e facevo i funghi. Ho capito, sì, e quale sta dicendo, c'è una fontana, c'è come un vascone, no? Aderente alla fonte, e poi però poco più avanti c'era anche l'abbeveratoio per gli animali, ti risulta? Sì, mi sa di sì. E infatti c'è quel pastore che rompe sempre le scatole, mamma mia. E comunque di fontane c'era anche uno ad Andausilo, però devi scendere giù in una proprietà privata, c'è la casa e di fronte c'è questa fontana che scende l'acqua a rilento, però è buona. Anche a Romana c'era, adesso non so se ci scende ancora lì l'acqua. Sì, a Romana, ma è lontano, io sto parlando qua vicino, là. Perché io vorrei risalire invece all'altra fonte di Florinas, praticamente è una strada, tutti fermi bordo strada, e la gente la faceva da lì, però che ricordo io, dall'altra parte della strada, la parte opposta, no, una strada non larga, c'era una specie di casa abbandonata o mulino abbandonato, perché mi pare di ricordare una specie tipo ruota di mulino o cosa cavolo era, e non riesco a ricordare il punto esatto. Infatti se fosse stata questa, quella lì avrei chiesto sulla mappa di se mi mandavi le coordinate GPS, perché andare così a tentativi è un macello. Ma io con Marco quando andavo le facevo 150 litri, 120 litri, capito? La portavo anche a miei suoceri. Allora io c'avevo la stessa avevo quella tipo vecchio che c'aveva praticamente la valvola come le ruote della macchina. Quando tu dovevi caricare molto, li mettevi pressione e la macchina si alzava. E poi quando mettevi il carico pareggiava come se fosse normale, non si abbassava, capito? Si abbassava sì, ma rimaneva sempre in linea. E poi quando avevi finito di caricare lo sgonfiavi, lo abbassavi, capito? Era molto comodo come sistema. È un precarico, da, come dire? È una ammortizzatura varia, capito? Erano molto comodi, ce l'avevo nella Station Vue o quella tipo vecchio, oppure ho preso quella tipo nuovo. Va bene. Sì, perché ricordo che nonno andava, non dove andavi tu quel col vascone, quell'altra, proprio sgorgava dalla, da questa parete verticale, no? Un po' c'era verde, eccetera. Va bene, riprendi Luca. È quella che va sulla strada. Però non ricordo proprio, esatto, da proprio sulla, si affaccia sulla strada, ti fermi proprio a bordo strada con la macchina. E vorrei ricordare il posto, con tanto di coordinate, in modo che io le metto nel navigatore e mi porta nel punto esatto, capito? Non sto a, a tentativi. Tu scrivi Badegunnu. Badegunnu. Da lì scende un'acqua, guarda, stupenda. Acqua de Gunnu. Allora. Ma tipo l'acqua della Ferragni? No, per costare così della banale acqua, la Ferragni poteva metterci non solo il nome, ma qualcosa di suo, qualche aroma suo, boh. E adesso preparo le uova di Pasqua, non è tesso? Che problemi di mezzo, preferito. Ma le uova le fa lei come le galline da dietro di cioccolato, mangia il cioccolato e fa le uova. E intanto con la famiglia si è tutta sgretolata per, solo per i soldi, lì. È uno schifo, mi sono venuto a fare in mezzo alla mammaggia. Allora cazzo, uno denunciato alla base, là sulla lassa, ma carità. Ma io dico, con i soldi che avevamo già, c'era bisogno di fare queste figure di cacca imperiali, con quegli intrallacci dei, non so, dei soldi, pseudo soldi dovuti a, ai bambini bisognosi o cos'era. Cioè, con i soldi che non c'avevano bisogno di fare queste piccole cosettine per avere ancora più soldi. Bastava uscirne da signori, cioè, vabbè, contenti loro. Ma visto che la sua di casa avevano, cazzo. Vivevano tranquillamente, non è che vivevano, vivevano in ricchezza proprio, lui aveva la macchina grossa, cosa aveva, la Ferrari, la Lamborghini, adesso non mi ricordo. Sì, vabbè, quello, però per cosa, cioè, cosa sa fare la Ferragni di veramente... E quelli sono i gonzi che idolatrano questo tipo di stile di vita e che li foraggiano, capito? I follower, le menate, capito? Allora questi fanno i soldi da, dagli altri idioti che, anziché arricchirsi loro, fanno arricchire gli altri. Quello che ti dico. No, sa fare anche i panduri. Anche il pandoro della Ferragni? Sempre, no, non dico niente. Così si chiama adesso, pandoro. Ha fatto il pandoro, adesso lo sta preparando le uova. E comunque non è lavoro, perché cazzo, quando si sono bullati subito uno va a parte, va là, si sono fatti i compagni e si sono fatti i figlioli, La stessa fine che ha fatto coso, il Dasco. Dato giocatore, un attessi, dopo tanti anni che c'erano insieme, non sono nulla di sicuro. Ma la vita, cioè, non c'entra nulla, ho già il fatto di essere ricco o povero, non siete di nulla, molle, veramente. Però lo ricco che si molla è sempre ricco, lo bovaro è sempre bovaro, però. No, ma non è che c'entri nulla se ricco o povero, quello non c'entra, lo so. Però c'è il fatto che non facevano vedere la famiglia le mulino bianco, cavolo, i figli, eccetera, eccetera, adesso avremmo i figli da piccoli, anche se a me questa non andava, comunque, volevo capire, devo fare ciò che vuole, io posso andare su internet. Quello c'è chi dice che è sbagliato, però non è che guadagnano mettendo i video dei figli, certo se metti il video del bambino in mutandine, comunque non sono d'accordo, io non sono d'accordo, però se metti un video del bambino che sta giocando con la sorellina o al mare, cosa c'è di me, di male? E sono minorenni, ecco cosa c'è, possono prendersi filmati, lavorare, tu non lo sai cosa succede su internet, se addirittura fanno la pubblicità, praticamente prendono gli riscutti, per modo di dire, e ti fanno la pubblicità facendo capire che lui che sta parlando invece non è lui, e immaginati lui. Fasulli, sono fasulli, fanno di tutto e di più, capito? Perché fanno i videomontaggi, come che sia lui a parlare, anche, anche a cosa ci hanno messo in mezzo, oltre che a Jerry Scotà, a Gianluca Vacchia, a Briatore, montano i video. Se tu metti, spendi 200 euro qui, là, di base questa pubblicità, oh, chissà quante gente voti di così. A me lo sai quando volte mi hanno telefonato dicendo che mettendo 200 euro al mese ti fai uno stipendio di 1500 euro. Ma cioè, a chi lo stai dicendo? A me lo stai dicendo, me lo dica lì, guardi, che ci creda che è una cosa vera, eccetera, eccetera. Noi investiamo e lei guadagna. Se era vero, non gli hai detto, se fosse stato vero lei non sarebbe qui a telefonare a me. Ah, va finita, che sono tutti gatti druffi, non bisogna mai crederci a queste cose, sai quanta gente frega, che magari spera, in un momento di un bisogno, di una cosa spera, quante vecchie hanno, anziane hanno fregato, che l'hanno fatto innamorare, poi l'hanno studiato tutti i soldi, i bambini non li bizzicano. Beh, già ci sono le iene, Barisso, che ribizzicano, quante ne sono pizzicane le iene, hai visto? Le iene le ritrovano sempre, però le ritrovano già quando hanno fregato la gente, chi è il problema? Che hanno fregato già anziani, quelli che telefonano dicendo che il nipote ha avuto un incidente, che gli servono i soldi, questo e quell'altro, anche oro va bene, vanno, si ritirano la roba, questa vecchia gli ha fregato, ha chiamato la polizia, ha raccontato la storia, gli ha detto che devono andare a prendere loro i soldi, questo qui è entrato, ha migliato della roba, e ciò che c'è il munizio te l'aveva versato. Già li hanno fatti vedere in televisione a quelli, poverini, vecchietti così, cazzo, quelli che si fanno imbambolare dalle straniere, mandami su, Dio la mamma malata, io ti amo, buon marito, baga. Anche lì le iene ne stanno castagnando parecchie. Marco, il tuo galippo, piano piano mangialo, non toglierlo tutto insieme. Gianni, si è sentita una botta, cosa ti è successo? A me? No, niente, stavo solo accendendo l'orario per farlo scaldare, io sono l'orario, in modo che scaldano e niente, e ho girato i canali di modo che non entra qua, capito? Ah, ma si è sentito un fischio. E il fischio che mi ha attaccato l'orologio, perché prima erano sul disco, sto qua. Sto sotto controllo, tutti i canali, Poi, prima dalle sbattere che si prendevano non c'era bisogno neanche di girare in quel canale. Prima è un casino, ma no. Prima c'era anche casino, mi portanti, non so se ce ne metti più, quello che sovrabbondava, l'altro che parlava male, c'era un casino nero, non è Luca, sono la gente che c'era, bisognava che selezionare le persone, io guardavo il canale che mi interessava, entravo, se non mi piaceva la gente che c'era. Ma infatti è quello che sta succedendo oggi, però sta succedendo oggi quello, secondo me, perché a uno non è detto che gli piaccia quel discorso che stanno facendo, dice esci che me ne vado nell'altro, qua non mi piace, esci che me ne vado, oggi non lo puoi più fa, perché ormai la gente si è tutta stufata, capito? Molti rimangono solo a ascoltare e e che ci vuoi fare ormai? E noi restiamo perché siamo conservatori, ci piacciono queste cose. Le abbiamo fatte da ragazzini e continuiamo a farle, sì, qua non muoiono del tutto. Guarda che la frequenza era morta, Giami. L'abbiamo ripresa io, Natalino, Claudio e poca gente. Ci siamo messi d'accordo, abbiamo riscoverato l'apparecchiatura, che se no era buccia, non era bilisciuto. Ma già da 10 anni fa. Io sono entrato nel 2010 già e c'eravate già qualcuno. In che anno l'avevate salvata la frequenza? Poco prima del 2010? Mi ricordo solo che siamo tornati con Natalia, abbiamo fatto il giro di telefonate, sai, guarda, ripristiniamo tutto. Io c'avevo sempre un apparecchio a casa, però non c'avevo l'antenna, c'avevo la bombola, la musica per ascoltare. Guarda, l'unico che entravano erano Gian Maria, la Domenica e cosa, Mario Mao. Poi non era più nessuno. Ehi, Sì, perché mi tolti quelli magari fedelissimi, poi voi siete più grandi di me. Nuovi non entrano perché, cioè, in baracchina è una cosa anacronistica. Da quando ci sono i social non ne parliamo, gli smartphone, cioè, se proprio vuoi simulare la radio fai quello, come si chiama, quella cosa di Gello, oppure quell'altro Midland CB Talk, fatto yoga. Io me ne ricordo tutti quelli che c'erano prima, che modulavano, anche i ragazzini che entravano. Noi eravamo già persone grandi quando voi siete entrati. Io vado più conto, io ho 64 anni, tu quanti ne hai? 45. Io ne ho 52. Guarda, se arrivo ad agosto sono anche 53, se ci arrivo non è detto però. Esagerando. Vabbè, anche qui c'è la tua età, non è che sei piccolo piccolo. No, allora, ti dico solo che la barba cresce solo bianca ormai, baffi e barba solo bianchi, quindi è meglio che non cresca. I capelli stanno imbiancando sempre di più, che ti devo dire? Vabbè... Marco, bello vederlo queste cose, se che ne vedi vuol dire che sei vivo, quando non li vedi più sei. Poi già me li tingo, i capelli già me li tingo, quando sono via me li faccio tipo Malgioglio, me li faccio. I capelli puoi tingere, Marco, ma l'età avanza sempre, avanza. Perché io mi sono innamorato di tuo marito. Per carità, che TV trash, mamma mia. E l'altra volta c'era un programma, mi ricordo che eravamo ai ferri corti quasi da guerra mondiale, no? Ti parlo di un paio di mesi fa o quando era. E c'era un programma attivo con questi, c'era Malgioglio, quell'altro, un altro metrosessuale, tutto pitturato, tutto colorato, tutto... insomma un programma proprio di quelli là. La TV. E comunque anche nelle serie TV hanno messo gay dappertutto, Star Trek, io quando mai in Star Trek, quello vecchio, vedi gli uomini baciarsi in bocca, baciarsi, cioè mi hanno rovinato anche Star Trek, che era sacro. Stargate adesso si chiama. Come? Stargate o gay trek, capito? Gay trash. No, è sparito da... è un po' che non lo vedo in televisione, comunque. Hanno fatto fuori sicuramente. Ma chi? Ma Giulio. Oh, ma c'era sempre in mezzo. Io mi ricordo fino a tempo fa, poco tempo fa, sempre lui c'era. In tutte le trasmissioni era sempre in mezzo. Mamma mia, con quei capelli da puzzola poi. Adesso c'è Signorini, di moda. Ha cantato ieri nel programma di Dario Blasi, o io davanti, adesso non mi ricordo, quel programma che fa Dario Blasi con le canzoni, eccetera, c'era anche lui. Adesso c'è Signorini. Oh, ieri Dario Blasi. Normalmente è Signorina, non Signorini. Allora, Ilari, una bella bocca quella donna. Me lo chiede, Ilari, mi fai fare un tiro in porta? Ma l'hanno intervistata, le ha detto prima di tutti quanti ne aveva avuto i ragazzi, lei ha detto 7 o 8. Come accoso all'isola, vi faccio entrare nella mia patata. Ma lo sai che anche il Papa ha detto la parolaccia, l'ho visto mentre stava facendo, che era San Pietro, ha detto la parolaccia senza essere con la detto cazzo. Caccioni. C'era scritto, guardate il Papa, anche lui dice le parolacce, c'era scritto così. Però vedi, non accettano per esempio come fanno i preti in America, che si sposano, fanno figli, famiglie. Qui è un sacrilegio se fai una cosa del genere. Vai Marco. Sai cos'è, lì sono protestanti, hanno regole diverse. Si divertono di più, almeno non devono fare una vita di rinunce. O peggio, come qua che se la prendono con i chierichetti, si fanno i chierichetti. A chi tu vedi che invece quasi firmare, ho avuto rinuncia, io, ti mostri che stanno in batto. Vabbè, ma è il loro rischio e pericolo, cioè loro hanno fatto voto di celibato, poi se li beccano anche storie con tipo uccelli di robo, storie con, come si dice, con le fedeli, dai, non mi viene il termine, porca miseria. Ma te lo ricordi tanto tempo fa, non adesso, quando c'erano infatti i cappuccini, ci sono ancora, dai, ma prima c'era il monastero lì dove sono i cappuccini. E praticamente questa signora diceva al marito che andava a confessarsi, ognuno al marito, siccome andava molto spesso, l'ha seguita e l'ha trovata con il frate mentre stavano facendo. E l'ha seguita, intitolata sempre San Francesco, e lui era con il mondale barabà e con la tua. Le ha fatto baciare il cordone, come diceva Padre Francesco. No, Padre Francesco diceva, se vuoi la soluzione, tira sto cordone, diceva così. No, no, io ho sentito anche, dai, ti faccio baciare il cordone. Lui diceva sempre questa frase, se vuoi la soluzione, tira sto cordone. Uccelli di rovo, uccelli e basta adesso, no ma... Ah boh, il rovo l'avranno lasciato per strada. Oh, era vecchia quella serie TV. Mi ricorda, serie Scandalo, non li posso più, serie di rovo. Mi pare sia anni inizio 80, può essere. Ah sì, sì sì. Qua non mi ricordo nemmeno i nomi del protagonista né dell'attore che lo impersonava, insomma. E vabbè. Roba antica, magari dava Scandalo all'epoca, adesso. Ah, poi l'hanno fatto un'altra versione, Uccelli Padulo. Sempre di rovo però, Senta, c'è delle novelle, ancora è Beautiful. Aspetta, si lavora lì su Beautiful, tu pensa che io fidanzato quando veniva Beautiful, però c'era Rigi allora, Rigi piaceva a me, adesso dice che va a posto Rigi, non piace a nessuno. Marcellone lo chiamavano, tra me. C'aveva la faccia scalpita, si è rotto le scatole di fare quella parte lì. È tutto un intreccio, vai, comprendi? Adesso c'è Terramare, Roma Tessi, vabbè, sono tutti i gatti pigliati da Ghisci. Tu sei rimasto già quando faceva le telenovele da Capriolio, di vero Marco? Vabbè, io anche sono nostalgico un po'. Per esempio, certe volte vedi su YouTube, mandati apposta, pezzi filmati di discoteche anni 80, anni 90, vedevi le ragazze che erano pure, non avevano un tatuaggio, pelle bella pulita, adesso sembrano dei galeotti tutte. Poi si gonfiano le labbra, si gonfiano le chiappe, si mettono sti zigomi da thailandese, le sopracciglia alte 20 metri, no, l'angolo esterno. Boh, vabbè. Il piercing della lingua. No, adesso è la moda di tagliarsi, adesso quello là si è tagliato il naso, quello che si vede all'ingresso della bocca, allucinante. È quello che si è fatto la lingua che sembra quella di una bicca divisa in due, che muove una parte in un modo e l'altra parte nel suo modo. Secondo me questa gente ha bisogno di un psicologo, quando arrivi a questi livelli, un conto è un piercing della lingua, un conto è farsi tagliare il naso o bucarsi la bocca a parte a parte, dai. Sì, praticamente io ne ho visto uno che si vedeva all'interno proprio, c'era tipo uno specchio nel coso davanti dove c'è i denti, si vedevano su, vabbè, come una lente. La gente dice che vanno in problemi seri, ma e che dici si muovono quelle protesi per fare le corna sotto pelle, si operano, si fa gente che si spunta, che sono i cosi del diavolo, insomma, devoti a queste cose qua. Noi la desarra di in un centro di psichiatrico. C'è uno su internet che si è pitturato gli occhi internamente, c'è la parte che noi abbiamo bianca, lui ce l'ha nera, ce l'ha tutto nero. Poi è pieno di tatuaggi, di piercing, di tutto il corpo. È proprio un ragazzo che secondo me non era manco brutto ragazzo, ma si è rovinato facendo, a parte che il troppo storpia tutte le parti. Io ce li ho tatuaggi, ne ho due, però basta, appunto, ne ho due e rimangono quelli lì, però non ne ho fatto altri e tutti mi dicono, non si fanno due, si fanno tre, ma non me ne ha fatti nulla, due rimangono, non ne faccio altri. Poi sembri sporco quando ne fai troppi. E poi si sa come si fanno le braccia, se le fanno tutte coperte di inchiostro in pratica, o per cancellarne uno vecchio, quello rovinarsi ormai, quando te le fai così. Sì, ma infatti c'è gente che esagera, che ne fa troppi, a parte i soldi che spendi, guarda che io per un tatuaggio ho speso 250 euro. E ti è andata bene, era piccolo, no? No, era grande. È la testa di Taiso. Ah, sai che me ne ero dimenticato già, però l'avevi fatto vedere. Sì, è la testa di Taiso, è grande. E l'altro è un buffino. Io ho messo gli animali perché sono amato gli animali, non ne metto di cose strane, tipo morte, come se la metto a circi, queste cose qui non mi piace. Io niente, non ne ho, non ne vedrete mai. Io roba indelebile non ne voglio. Non ne voglio. Piuttosto con l'altra macchina mi prendo quei tatuaggi trasferillimi che li attacchi con l'acqua, che durano pochi giorni. Ecco, sono andato al tabacchino perché sono andato a telefonare stamattina, mi ha detto che non c'avevo più carica. Mai successo, vedami Marco, mai, in vita mia di avere il telefono scarico. Eia, vabbè, capita. Oppure guarda, posso rimpolerare i tatuaggi all'ennè, fatti col pennellino, è una specie di inchiostro che sì, ti durerà una settimana. Perché ti fanno Alghero quei pakistani o di dove sono indiani, boh. Ma non sono tatuaggi, dissi. Allora io il tatuaggio, prima di farmi il primo, passavo e ripassavo, prima di decidermi, so quante volte sono passato, dicevo entro, e poi me ne andavo. Poi un giorno mi è venuto in mente e ho fatto un disegno, mi è piaciuto a questo tatuatore e il primo me l'aveva fatto a Porto Torres, me l'ha fatto la ragazza. E ho detto, a me tanti non piacciono, lei l'ha tutta tatuata, a me, allora io non ti piaccio. Ma com'è questa ragazza? Per caso bionda, alta, una specie di vichinga? È robusta, con i capelli rossi. Potrebbe essere Manola. Manola era all'Istituto d'Arte. Metallara, all'epoca vabbè, non ne aveva i tatuaggi, qualcosina, ma io chiamavo la vichinga perché era più alta di me. Adesso poi probabilmente si è anche un po' ingrassata, col tempo che passa. È proprio lì, sì, è lì, me l'ha fatto lì. Sì, poi lì è anche bravina, dicono, poi vabbè io non mi intendo, però dicono che abbia una buona mano. E lei è stata da un tatuatore a Sassari, prima ha imparato lì e poi si è aperto lo studio a Porto Torres e poi adesso l'ha chiuso, dopo l'ha fatto a me e ha aperto un altro. E so che so più o meno dove, dai, vicino alla gelateria Capriccioli. L'ho fatto parecchia gente, esatto, però a me non mi è piaciuto il fatto che lui abbia fatto gli schizzi e mi ha coperto la coda del delfino, io gliel'avevo fatto il disegno io, come lo volevo, col delfino che giocava con la palla. E c'aveva la coda che sbucava fuori dall'acqua, lui gli ha fatto gli schizzi e ha coperto la coda. Ma lo sai che le porcherie che facevo da bambino? Prendevo un'immagine di un giornale tipo quelli della TV, Sorrisi e Canzoni, no? Un'immagine a colori che mi piaceva. Mi bagnavo il braccio di pelina e poi ci applicavo la pagina. Lo lasciavi, non so, un minuto, poi toglievi e parte del colore veniva, dell'immagine veniva trasferita sul braccio. Certo, un po' mezza sfumata, però. Il problema è che faceva malissimo, immagina che razza di inchiostri andava a contatto con la pelle, quella trilina sulla pelle, infatti quando mi vedeva nonno, se ne toglieva la cinghia giù mai. E chi non l'ha fatto, ma lui ti l'avevo fatto da piccoli, perché io lo facevo con l'acqua, non con la trilina, con l'acqua, abbagliavo con l'acqua o con l'alcol. Ah, perché scusa, i tatuaggi che facevano e che fanno ancora in carcere, cosa pensate, sia erano inchiostri tutti a norma, tutti a benna, guarda un inchiostro è a benna. Cosa usano come serpentina? Cosa terra in galera. Non avranno le pistole professionali, avranno uno spillo, un ago, magari quello usato per farci le pere poco prima. C'è una macchinetta che gli aghi ne ha diversi, non ne ha uno solo, ne ha tanti. No, ma dico, in carcere ne avranno macchinette per tatuarsi o no? Useranno i metodi antichi come facevano gli indios, come facevano i maya, con una punta, una cosa che punge continuamente, no? Per simulare tanti aghi, no? Non so come li facciano in carcere, forse con l'ago, vero Luca? Ciò che ci sei stato. Sono stato Regina Ciri io. Comunque, non so se siete mai stati su TikTok, ci sono i carcerati che hanno i telefoni di notte, fanno i filmati, fanno le live su TikTok, parlano del carcere, parlano di come li trattano, tutto quanto. Io li ho seguiti qualche volta. L'abbo sapone acqua, l'abbo si mette per lavorare 15 ore al giorno. Cazzo, invece le tasse di bove potrebbero essere pensionistici. Non lo stato lo sei lui. Cosa? Non lo stato così. Non lo so, l'ho toccato di nuovo. Però dubito che siano autentici quei o me. Perché li identificherebbero e glielo farebbero togliere il telefono. Secondo me è gente che simula di essere in cella, capito? Mette due sbarre comprate da Tecnomat per simulare che c'ha le sbarre alle finestre, non lo so. Marco, gente come te, sempre che c'è lei che gli ha detto vai, non si incarce, le cose con l'altro, lui ha preso il telefono e gli ha fatto vedere tutto lo stabile, da fuori, fino a dentro, quello che c'era dentro, gli ha fatto vedere tutto, le sbarre, la porta con la finestrella, tutto quanto, perché loro sono stesso le guardie che gli fanno avere questi telefoni, la droga, sono stesso le guardie carcerarie, questo tu non lo sai, ma l'hanno detto loro, hanno detto che sono le guardie che praticamente le paghi, si comprano un stipendio basso, le paghi, ti fanno avere queste cose, e quindi chiudono l'occhio, cacciano tutto, le sue cose, fanno finta di non sentire. Non ho capito la metà che ci avevo ricevuto riacceso già. Ripeti in breve. Ho detto che sono le guardie che li fanno inserire queste cose qua, i telefoni. Comunque è uno che stava facendo il filmato, non si faceva vedere in faccia e gli hanno detto che non ci credevano che era in casa, dice come fai in galera con il telefono. Lui ha spiegato che sono le stesse guardie che ci fanno avere queste cose, roba, la droga, eccetera, eccetera, perché hanno gli stipendi bassi e per arrotondare fanno queste cose, li paghi e loro ti fanno avere queste cose. Poi quando tu telefoni la notte, loro non ci sono più, sono giù, mica stanno tutta la notte a girare lì, no. Sono giù, loro sono al terzo piano, ha fatto vedere il filmato di tutto lo stabile, perché lui gli ha detto che non ci credeva, ha preso il telefono, gli ha fatto vedere tutto lo stabile e si vedeva tutto, si vedeva tutto lo stabile grande, con tutte le sbarre, eccetera, eccetera, quindi è veritiera la cosa. C'è anche gente che ha gli arresti domiciliari e parla da casa, però ci sono là anche quelli che sono in galera. Ah, ma che strano. So che, cioè, poi se li sgamano anche i così, polizia penitenziaria, perdono il lavoro, sì, lo fanno per avere i soldi in più, se si accorgono che danno quella roba ai detenuti, guai. Infatti ogni tanto penso ne beccheranno uno. E lì, brutto mi, perdi il lavoro, ti sbattono fuori, e poi rischi di finire nello stesso carcere dove lavoravi. Oh, buona notte, anche lì, Marco, sono d'accordo con voi, l'altro. Uno ha raccontato che sono andati la moglie con la nipotina a trovarlo e questa guardia carceraria si è permesso di mettere le mani nel sedere alla nipotina e io non ci ho visto più, l'ho preso, gli ho dato una sussa. Sai cosa mi hanno fatto? Mi hanno portato in questa cella, l'hanno fatto lungo, l'hanno picchiato, capito? Tutte le guardie carcerarie l'hanno picchiato. Ma dice, secondo te cosa ho fatto male? No, l'ho fatto benissimo, gli hanno detto gli altri, ho fatto benissimo, bastardo. San Sebastiano era successo anni fa, una mezza risvolta e avevano buscato, però poi adesso non puoi fare più niente, in teoria, sei più sotto controllo. Capito, i delinquenti sono più tutelati, e chi ci lavora è meno tutelato, ogni tanto si beccano sputi, lanci di siringhe, si legge sulla nuova cosa succede a San Sebastiano. E molti di questi detenuti che sono i più fuori di testa, e tutti sono questi africani qua, che sono già matti di serie, arrivano da noi, fanno casino, continuano, lo fa una volta, due, tre. E alla fine cosa fai? Lo mandi in galera, è già in galera. Luca! Io lo sono sentito a me, a passo. Sto uscendo. Sto picchiando. Sì, è vero, che gioco con freccette con le siringhe. Gioco con freccette, secondo me. Ma secondo me sono tutti corrotti lì dentro, soprattutto le guardie e il direttore per primo. Vai Marco. Un bel ambiente. Forse qualcuno ha breccato, vediamo, ho sentito un segnale sotto, avanti che vuole entrare. Ho l'impressione che il volume del Mikey Gain si scusi da solo, perché adesso se di nuovo saturo. Io Gianni, aspetta. No, che l'ho spostato poco fa, l'ho messo più in dentro, capito? Guarda, masso adesso. Adesso va bene, adesso è di lusso, è chiaro chiaro. Però se tu lo alzi, ti farà invece tutto, sembri una persona che conosco. Paperino. No, adesso l'ho messo a uno. No, perché ce l'ho infilata sotto, capito? Perché l'avevo sollevata per pulire. Si vede che ho toccato lì. Perché già lo sai come sono queste cose. Basta nulla, basta un pelino qua e diventa subito assato dall'aria. E vedi che io lo metto vicino al cassonetto, metto il numero, che naturalmente chiamo il comune, così mi danno il numero da metterci sopra. E io non voglio dire al cassonetto, mi sa la radio, scusa. Non la metti vicino al cassonetto. Se ti ho sentito gente che li trovo vicino al cassone, ieri ho trovato un Saturneco, ma cazzo ci te non ho mai avuto, ma mai manco un microfono vicino a un gascione, e chi c'ha acciappato i macchini, buh. E lì andavo in piazza dei segni, sai quando ne trovava Mario Masso di questa roba qua, quando lavoravo in comune, oh, i baracchini portatili, i baracchini, tutti funzionanti, perché poi il colore funzionava. Sì, ma non ho capito, cioè da loro ritirano dalla città. Poi questa roba in pratica una volta a settimana o non so, la portano a Piazza dei Segni, la scaricano per terra per vedere se qualcuno va, se riserva qualcosa, come funziona? No, la metti in Piazza dei Segni quando non ci serve più, poi c'è il capo del comune che va alla ritira, la porta all'autoparco, capito? Mercoledì passa, la caricano e ce la portano via. Ah, io pensavo che la portassero lì per vedere se a qualcuno si arriva a qualche pezzo. E non si possono manco toccare le cose che ci sono. Ma quindi la cernita tuttora è vietata? Sì, sì, è vietata, non si può pigliare la roba. Se ci sei roba lì non si la puoi toccare. No, perché una volta prima era vietato, poi di nuovo permesso, dicevano, poi di nuovo vietato, cioè non... poi quella roba tanto se la spartiscono tra di loro, quelli che la ritirano e chi controlla anche, la fotte dindi, se ci fanno tenere la roba migliore, ecco perché non vogliono che la tocchino gli altri. Allora, non lo so che se la tornano loro la roba, Cosa sto dicendo, le apparecchiature con la persona lì se la tornava e faceva anche bene, funzionava tutto, ha trovato portatile, ha trovato stazione base, ha trovato di tutto. Non che io vada a raccattare, però vedevo tipo le yogurtiere, ancora con la scatola, col film sopra, col sigillo, col cellophane, mai aperte, magari di qualche negozio che ha fallito, che ne so. E quelli, arrega, e vai a toccare niente adesso. Comunque anche io una volta vicino al cassetto ho trovato una graticola elettrica chiusa, sigillata, con la garanzia all'interno e tutto quanto, mai aperta, o l'hanno rubata, l'hanno mollata lì, non lo so. Comunque me l'ho presa, ti dico la verità, me l'ho presa e funziona anche bene, non è mai stata usata, e ancora ce l'ho fatta e tutto. Sì, e questa è niente, tu, questa che noi vediamo è roba di persone comuni, tu devi vedere in un certo... diciamo in Costa Smeralda, in zona esclusiva di ricchi, uno che faceva vigilanza, dovevate vedere cosa non buttavano questi, tipo il marito ordinava il bagno nuovo, tutto con rubinetti di super pregio, arrivava la moglie e diceva no, i rubinetti color argento no, prendiamoli d'oro, e quelli buttando rubinetteria, bagni interi messi fuori dalle villette in attesa che passasse il coso, la nettezza urbana o chi di dovere a prendersi, e lì buttate sono, se le prendevano le guardie della vigilanza, capito? Ma roba nuova, roba anche di valore, non come qua che trovi più fesserie, capito? Proprio come nuotare nell'oro lì. Ui, per carità di Dio, per carità. C'è gente che ha bisogno, gente che proprio la butta via la roba. Perché invece non darla a chi ha bisogno? Magari lascia un frigorifero e gli dà il frigorifero se è buono, oppure la lavatrice, qualche cosa che gli può servire. Invece srampano di tutto. Poi fanno prima, invece che stare a mettere articoli, questo e quell'altro, si rampano e via. Sì, ma i comuni adesso guadagnano da tutta questa roba, hanno un tot dalla plastica, un tot dall'alluminio, un tot dal ferro, eccetera eccetera, hai capito? Queste robe qua dove vanno a finire? Sì, nelle discariche, ma i comuni le pagano, capito? Per queste robe qua, perché poi vengono riciclate per costruire altre robe. Io non so se voi l'avete mai fatto, ma prima in Piazza delle Segni ritiravano le bottiglie in plastica e in cambio ti davano le lampadine di casa. Sempre là ci sono le macchinette dove metti la bottiglia e poi ti dai soldi. A parte questa che c'è qua, no? Che ti commetti così le bottiglie e poi ti dai i punti e con i punti mi basta dei biglietti dello dramma. Io lo facevo anche io, per carità, che l'appuraggio, ci buttavano di tutto lui. In quel macchinario ci buttava di tutto, ogni tanto si fermava e c'era proprio lì in gestione il macchinario, era fuori del negozio. Ogni tanto mi chiamavano, Gianni al macchinario, Gianni si è bloccata la macchina delle bottiglie, ci buttavano tutto palloni vecchi, di tutti i bimbi. Ma qua non ci puoi buttare quello che vuoi perché c'entra la sua bottiglia già, e se non c'ha il codice a barre non passa neanche, entra la bottiglia qua e buh. Sì, uno per volta, perché c'è il codice a barre, non c'è il codice a barre, il codice ce l'ha messo, però il buco era largo. No, qua passi si apre la macchina, quando legge il codice a barre si apre la macchina, capito? E cade la bottiglia, se no non si apre. E all'interno c'è una tramoggia questa tramoggia raccoglie tutte le bottiglie, le pressa e poi tu vai col carrello e la prendi e la carichi, poi passa il camion e se le prendi. Ma con questo lavoro devo fare tutto io, capito? Mettere un errore, la roba passava il camion, poi si caricava l'errore, prendeva, risvoltava e poi ci riportava tutti. E insomma era tutto un casino, e dietro a volte il camion non passava, si riempiva tutto il ruolo, cazzo, lasciavamo il ruolo per portare la roba pure. Vai Marco. Sì, allora per piazzare i segni lì, praticamente io vedevo questa gente tutta che faceva la fila per buttare le bottiglie di plastica. Io non sapevo che ci fosse quel macchinario, credo fosse il normale contenitore. Ho detto, caspita, da dove è arrivato tutto questo senso civico dei sassaresi? Poi invece un giorno mi hanno detto che mettevi le bottiglie e ti davano anche buoni con punti, non so in che forma ti diano questi due siti che ti danno. Adesso ho detto, ho capito perché c'era gente tutta intenta a mettere bottiglie, per due citi poi, per avere una lampadina, per avere due fesserie, io non manco l'attento, cioè noi abbiamo i cassonetti qua vicino della plastica, non starei a lamentarmi a caricare le bottiglie in macchina, andare a piazzare i segni, metterle lì per avere cosa? Per avere pochi centesimi lì, vabbè, contenti loro, però vedi, non hanno fatto, cioè se fosse senza regalini, senza premi, non ne farebbe nessuno lì, capito? C'era mio compare che faceva il giro di bar, se la trovava le luci di prima e portava loro. Tipo la macchietta di Corte Santa Maria dava i soldi, per esempio. Ma e quanto dava, per esempio, per tot bottiglie? Cioè, cosa fai? Ritirati i centesimi, le decine di centesimi, per carità. Non lo so quanto dava Marco, però ce ne andava di gente. Cosa... Disperados. Ma lo sai, in America, quando si lasciava, c'è già qualche anno fa, la lasciava magari in città di 2 centesimi, 5 centesimi, ma... sono caduti, ho detto sì, guardi, non faccio neanche la fatica di piegarmi a raccoglierli, e gente inseguendoti con la monetina in mano, ma magnadivi, cioè io quelle in rame non le considero, io quando ho un bel po' di monetine in rame buttate in macchina, in tasca le do al tartufon che c'è fuori, che ormai dovunque vai c'è il nero con la mano tesa, se non è il nero in questi marchi o c'è il tossico o c'è la zinga, tutti con la mano tesa, tutti morti. Allora siamo vivi, siamo vivi. Luca, ma invece se mica sto per passare, mi lascio, mi lauro e io vengo. Luca, morto. Anche lui sarà andato bene o così. Oh, tutta la scena in radio siamo mi. Miracolo, cosa è successo? Perché se c'è gente si parla, non male, no? Se c'è gente si parla. Verso le 8 fai già, che scendo il cane, così scendo una volta. Va bene, va, verso le 8 allora. Perché poi devo portare un cane. Cappa. Ehi, sa cos'è? C'è caldo, cioè. E alla fine uno dove va a caldarsi o stai sempre in posti condizionati, è per quello e insomma da la 27 per oggi l'abbiamo tenuta un po' attiva. Sì, ma a volte la 23 non so se ci sia la 23, c'è sempre la ruota, c'è Paolo e Gian Maria, a volte entra anche Emanuele, eccetera eccetera. Ah vabbè, no, perché se non carrello lo lascio fisso sul 10, squalciato, con volume magari un po' basso, certe volte magari non mi accorgo nemmeno se qualcuno chiama sul 10. Io ogni tanto una carrellata, ma così, non corrispondono agli orari poi quando carrello io, senti un po' di propagazione, dipende dai giorni. Cava, e vabbè. Andà bene. Beh, adesso, sai quando ci sta bene il Ruiz, col colore laterale che c'ha, con il mobiletto, ci sta troppo bene incassonato. Allega foto. Ma non di Tardone, diglio, Marco. Ruiz con Tardona, composizione artistica. Vabbè che anche lui è un Tardone, non è che sia giovane. Sì, vabbè, anche lui è Tardone, ma appunto si accoppia bene, Tardone con Tardona. Grazie, Gianni Zighe collezionista. Secondo me ti batte Marco, Gianni a te ti batte a radio. Sì, sai cos'è, lui gli piacciono anche le radio... i Saturn, i Rois, quelli anche un po' d'epoca. Io mi ero ripromesso di non avere più vecchiume, anzi già la roba che funzionava l'avevo data tutta. Il Connex 4000 l'avevo dato a Pomponio, il FM500S a Pomponio, il Viking 2 ho dato a Pomponio. Un po' di roba avevo regalato, comunque regalato perché era un po' non perfetta, diciamo, dai, sai, qualche trimmer da disossidare, qualche falso contatto così da farsi quelle saldature magari un po' sporca da rifare, e Antonello già se le ha messe a posto. Ma infatti sono radio che non vuole più nessuno, tra l'altro. Non fa neanche a venderli perché non li vuole nessuno, capito? È raro trovare il collezionista, perché alla fine questa roba non se la può prendere uno che la deve utilizzare tutti i giorni. È roba che si prende il collezionista, che hanno magari tutta la serie di quel modello e se la mettono lì in esposizione. A me di esporre che il radio non è una cosa che piace, anche perché sono radio che devi usare, accendere, se no si scarica tutto e addio, si rovinano ancora di più. Io la accendo, guarda che vi ho mandato la fotografia, questo ci sta bene. Adesso apro via. Sì Gianni, forse io ho qualcosa di più di baracchini, ne ho di più, però sono tutti veicolari alla fine, io non ho stazioni base, sono più comodi veicolari per le dimensioni ridotte, capito? Adesso apro la foto, dai. E cosa c'è tra Rocco Siffredi già? Marco, non aprirà la foto. Aspetta. Oh, bello, bello, sì, c'è il bordino marrone, i bordi come il mobile, sì, bello Royce, bello. L'importante è che sia tutto funzionante, dico, capito? No, perché... Vabbè, ma molti che adesso non entrano più nemmeno in radio avevano parecchi simili o di altre marche d'epoca, però sempre qualche magagna c'era e magari non riuscivano a risolverla, capito? Lo aggiustavi una volta e magari non era quello, o la riparazione non durava, capito? O non trovi i pezzi, chi lo sa? Ah, il mio va benissimo, funziona tutto bene, tutto funziona. Io l'ho provato tutto, l'ho fatto provare anche a Luca perché lo dovevamo vendere, poi non l'ha preso quel pezzo al capo. Le ho mandato a funzionare perché l'ho fatto vedere tutte le funzioni, l'ho fatto filmato, tutto quanto. Funziona tutto, completamente tutto. Sì, fa la sua figura, questo è AMSSB, vediamo se riesco a vedere le serigrafie, non me lo dire. SABD? No, non leggo. Clarifier, sì, vabbè, se c'è clarifier con le bande laterali. AMUSB, LSB, eccolo lì. Esatto. Comunque è buono che abbia l'orologio a LED, perché quelli ancora più vecchi avevano l'orologio di serie, quelli con... come si chiamano? Quelli che hanno quei display a cartellette che girano per formare il nuovo numero. Luca, aiutami. Sì, sì, ce l'avevo, l'ho avuto anch'io una radio così, però l'orologio dopo si fermava e non si ripigliava più. Ma io non riesco mai l'orologio, perché se uso l'orologio non posso usare i canali, capito? Cioè praticamente tutti i canali appare l'orologio, se no viceversa. E io lo uso sempre con i canali, quindi non mi interessa l'orologio, però cioè funziona, funziona tutto, completamente c'è tutto funziona. Il pace mi sembra che ce l'aveva così come sta dicendo Marco. Vabbè, il pace era un bel apparecchio lo stesso, anche Lafayette sembrava una radio, ho sintonizzato il radio, sembrava Lafayette, ce lo ricordi? Molto bello, anche a me piacciono già, ma tempo no, non mi piace collezionarli, capito? Mi piace così vederle e poi però mi stufo, non mi piace collezionarli perché non ha senso, tenerli spenti soprattutto. Ma io questo qui non lo vedo perché adesso ci sta bene lì, lo lascio lì, non c'è problema. Era perché era fuori che lo stavo vendendo, perché prendeva polvere, mi dava fastidio, adesso che dentro l'armadietto ci sta bene. Finché non te ne prendi un'altra ancora. Ma se ti porto il Fast One Agenda Zero Bonio Ruiz. Ma non l'hai dato? A me stai dicendo Marco? Non l'hai dato ancora? No, l'ho messo su eBay. Che adesso lo dà a me quando vado, me lo dà. Fast One, guarda, è una bellissima radio. E tra l'altro qua non ce n'è. Tu trovami qualcuno che ce l'ha qua in Italia, questa radio qua. Sì, non c'ha le bande laterali, c'ha 400 canali. AMFM, però è una bellissima radio. È una bellissima radio. Tra l'altro là, questo che c'ha la scheda appunto per metterci l'USB, puoi ascoltare anche gli MP3. C'è il tastino, ti fa vedere un pianoforte in pratica quando sposti il tastino e ascolti la musica tramite la chiavetta. Oppure tramite sempre la chiavetta o la USB, la SD, puoi metterci gli sfondi che vuoi, una tua foto, qualsiasi sfondo che vuoi. Sì, lo conosco, però per dire, se avessero fatto uno sforzo, l'avessero fatto AMFM SSB, come un 3009 normale, no? In più, vabbè, il circuito per gli MP3, il display, quella roba lì sarebbe stato meglio, diciamo. Beh, forse in America non è dratta, non so. No, è francese però, quella è una marca francese, CRT France. Questo è anzi tipo europeo più, l'hanno fatto tipo americanata, no? Mettevano anche come sfondo l'aquila, la testa dell'aquila americana, forse anche la bandiera, però è francesissimo il CRT. Ma ti dice che è spagnolo addirittura? Oh. No, garantito, proprio la Cireti France, il sito ufficiale. Io ci avevo comprato un baracchino direttamente dalla Francia, dalla Cireti France, perché era introvabile in Italia. Piccolino, sempre omologato, sempre da paramobile, aveva delle caratteristiche che mi interessavano e lo volevo. Costava anche poco, il gira gira in Italia te lo facevano pagare di più, capito? Dipende dal negozio. Questo c'è il microfono originale, la staffa originale, pomelli, viti, vittine, tutto originale, la scatola, tutto originale, funziona alla grande, come hai sentito, watt 4 o 10 e quindi